notte senza lumicino. Ora nero tu cammino, son più chiare delle nevi di Toledo. Ferro bronzo, muro roccia, bustina d'acqua capoccia, son venturi delle nevi di Toledo. Dunque fa saluto a tutti, barca i monti, dalle flucchi, dalla larga, dagli nevi di Toledo. Thank you. non piangere lui, sei in un lontano giorno, io t'ho sorriso, per quel sorriso. Morrer

stiam qui, io qui, stiam qui, a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla Cina la pace ridà,

stringo, gronda di sangue. Basta sangue, giovine fa, figlio del cielo, io chiedo d'affrontare la prova. Fa ch'io possa morir senza portare il peso della tua giovine vita. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. Non volere, non volere, che senti ancora d'orrore l'arreggia il mondo. Figlio del cielo, io chiedo d'affrontar la prova. Straniero, febbro di morte, e sia, si compia il tuo destino. Thank you.

Thank you.

Oh, Tortura, sin memoria, ante la tortura. porta. Oh, e lì, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. Pensou 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。